Bene! Ora che siete protetti, pensate alla chiave. Dovrete passarvela costantemente, così da non rimanere troppo a lungo un bersaglio fisso. Chi di voi tiene la chiave dovrà tenere il dito premuto sullo schermo e al mio segnale lanciarla al compagno trascinando il dito sullo schermo.